Summertime di Elisabetta Fiorito. Millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie e i giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo Sancho c'è bisogno soprattutto uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto. Vammi a prendere la sella, che il mio impegno... Eh già, buon pomeriggio. Chi non ha mai sognato di essere Don Quixote? Chi non è mai stato nella sua vita Don Quixote? Chi non ha mai seguito i mulini a vento? Nessuno, tutti quanti l'abbiamo fatto, tutti quanti un pochino ci riconosciamo in questo personaggio, in questo mito di Miguel de Cervantes, e per riconoscerci ancora di più dobbiamo andare domani al Palazzo dei Congressi di Taormina e poi il 10 agosto da Mantea, insomma poi daremo tutti gli appuntamenti per vedere uno spettacolo proprio liberamente tratto dal capolavoro di Cervantes di Roberto Cappuccio con Lello Arena in Salvo Panzo e regia di Nadia Baldi. Allora Lello, quest'anno siamo andati praticamente da Prospero dell'anno scorso a Salvo Panza di quest'anno, Sancho Panza. Sono dei percorsi belli da fare, e comunque l'unico Roberto che ci abbiamo in realtà è Roberto Erlisca che fa Don Quixote, mentre invece l'autore è Ruggero Cappuccio. Lo dico perché sennò poi Ruggero non così ci rimane male che ci confondiamo i nomi così. Però sono dei percorsi belli perché, come dire, sono dei percorsi preziosi dove si imparano un sacco di cose, dove ci si emoziona, ci si diverte e magari ad avercene di più. Lo scudiero, la coscienza un po' di Don Quixote, Lello? Ma questo Salvo Panza è un po' diverso perché è un po' uno stregone, un po' che c'ha un po' di anima scura, gli vuole molto bene, ma contemporaneamente è un po' anche una specie di infermiere, un po' di guardiano, un po' custode, insomma c'ha un po' di cose strane rispetto al Sancho Panza tradizionale che tutti ricordano. Allora, la regista è Nadia Baldi. Nadia, è un Don Quixote ambientato ai nostri tempi? Sì, è un Don Quixote ambientato ai nostri tempi, anche se il luogo nel quale ho in qualche modo collocato i due è un luogo non ben identificato. Sicuramente sono due che possono sembrare due clochard, sono due che possono sembrare due malati di mente. Sicuramente è una storia attuale, attualissima, perché Cappuccio riesce a reinterpretare quello che è stato il classico di Cervantes in una chiave assolutamente estremamente contemporanea e anche universale. Questo senso della solitudine, questo senso della poesia che rende anche molto soli, soprattutto in questo periodo poi storico nostro. Ecco, un Don Quixote interpretato da Roberto Erlitzka e un, abbiamo sentito, Salvo Panza interpretato da Lello Arena, ma che cosa fanno nella vita questi due? Questi due sono praticamente, diciamo, in qualche modo... Roberto, che è Don Quixote, è un intellettuale che continua a dare dei nomi alle cose, alle vicende che vive con altri nomi, un po' come era nel classico, e quindi si ritrova a vagabondare inseguendo delle fantasie, ma cercando di dare voce a dei personaggi che sostanzialmente sono anche dei personaggi universali e che non cambieranno mai. Ha un rapporto strettissimo con i suoi libri, con la letteratura, e costantemente ci porta ad averci a che fare. Lello, che è Salvo, lo incontra per caso, viene fatto scudiero, ma sostanzialmente alla fine è comunque un rapporto molto ambiguo. Noi non riusciamo a capire realmente se non è un angelo che lo accompagna alla fine, se non è un mago che invece lo raggira, se non è invece un grande compagno di viaggio, questo grande compagno che in qualche modo sublima con lui il senso della solitudine. Insomma, una pièce sicuramente drammatica, e noi avremmo voluto mettere dei brani magari tratti dal Don Quixote di Orson Welles, però ci scusate, noi abbiamo scelto una cosa molto più comica. Si tratta un po' da quello che è stata la raffigurazione di un Don Quixote come poteva essere negli anni 70 al cinema, perché Don Quixote è un personaggio oramai eterno, e allora abbiamo scelto Vittorio Gassman, che interpreta questo Don Quixote immaginario, ovviamente, del nostro cinema, nell'armata Brancaleone. L'uomo allo mio servizio non teme né piova, né sole, né fuoco, né vento. Lo quale servizio? Siamo tutti allo pari. Silenzio! Io vi sono duce! E però mi dovete obbedienza e dedizione. Il nostro cammino sarà cosparso di sudore, lacrime e sanguine. Siete voi pronti a tanto? Rispondete a una voce. Siete voi pronti a morire pugnando? Noi marceremo per giorni, settimane e mesi, ma infine avremo castella, ricchezze e bianche femmine dalle grandi pupe. Taccone, alza le insegne. Non le tengo. Bene, e tu levali in alto. E voi, bifolchi, ponetevi all'ombra di esse. Escite dalla fanga, che io farò di voi cinque un'armata Luce, veloce. Siamo quattro. E io farò di voi quattro. E insomma, abbiamo sentito Lello Arena, scusateci perché il vostro Don Quixote ci sembra molto drammatico, ma noi vogliamo capire questa figura, no, di Don Quixote, e in questo caso Salvo Panza, come figure eterne di gente che ricorre ai propri sogni e le proprie illusioni. È un po' così. Sì, sì, no, ma insomma, ecco, a parte che si tratta di atmosfere preziose, insomma, il riferimento ci mancherebbe fra Vittorio da un lato e Mario Monicelli dall'altro, insomma, si tratta veramente di riferimenti che, anzi, come dire, se ci avete pensato, fanno anche impressione, cioè inorgogliscono, perché le atmosfere sono piacevoli in questo senso. E, in realtà il dramma che raccontiamo è un dramma quotidiano, perché in questo periodo tutti fanno un gran lavoro per convincerci che i pazzi e i poeti, e in questa nostra società dove si deve per forza correre a guadagnare, non servano a nulla. Invece in realtà, come i nostri personaggi all'interno dello spettacolo, servono dei punti di vista alternativi che siano più utili alla parte della nostra anima, di una prospettiva che non sia semplicemente questa casareccia e pecoreccia che ci stanno insegnando, cioè quello che si vede oggi, diciamo, nella nostra vita politica e culturale, sono veramente delle tragedie vere. Quello che si sta vedendo in questi giorni è veramente, come dire, scandaloso e dire niente. Quindi è bene proprio invece celebrare delle persone che di questa vita hanno un'idea più nobile, più poetica, perché è quello che ci serve. Insomma, certo, tra tutti gli intrighi e le intercettazioni che sentiamo, poi invece vediamo questi due personaggi che sono spersi in un mondo assolutamente onirico. Nadia Baldi, qual è il messaggio dirompente di questo spettacolo? Vorrei precisare un attimo che è vero che è uno spettacolo che passa alle corde della solitudine, ma è uno spettacolo assolutamente anche molto ironico, e quindi la gente si diverte davvero. E si diverte perché secondo me non c'è niente di più drammatico di una risata amara, e in questo senso il messaggio, se di messaggio si può parlare, appunto il messaggio che in qualche modo già citava Lello, cioè questa possibilità di ascoltare delle voci che siano in qualche modo più sane. umane, di ritornare a un senso critico autonomo, di far respirare le menti, perché veramente non sappiamo più con chi interagire, con chi dialogare in questo periodo, soprattutto culturale, insomma. Ecco, Don Chisciotte impazzisce, no? O comunque un pazzo, forse per la troppa cultura, forse per queste sue illusioni. Gli italiani rischiano un po' di impazzire? E questo un po' il messaggio? Magari, perché io li vedo un po' assopiti. Già la follia è un livello, secondo me, di coscienza più alto, perché diventa una reazione, diventa qualcosa di evidente, diventa qualcosa di oggettivo. Invece io non sento tutto questo, quindi in questo senso, come diceva Lello, che ben vengano i folli, che ben vengano i poeti. Sì, il nostro messaggio vuole un po' essere questo, sì. La battuta che ti piace di più del tuo personaggio, Lello? Ma devo dire, appunto, poi dico, non è un caso che Nadia abbia scelto me, se voleva proprio, come dire, una commedia tragica o una tragicommedia, insomma, è chiaro che se ci sto vengo chiamato anche a fare un lavoro in questo senso, perché se si parla sempre del dramma di Don Chisciotte, in realtà il dramma di Salvo, di essere più pazzo del pazzo, raramente viene raccontato, perché è vero che ci sta il pazzo e il visionario, ma quello che invece di stare, insomma, insieme alla gente normale decide di assecondare il pazzo è forse più pazzo ancora, è più poeta. Però questi discorsi Ruggero anche ha scelto di farli non attraverso un percorso a senso unico, ma di raccontare due tragedie che sono condite da una serie di invenzioni che sono anche proprio sul piano della commedia veramente straordinarie. Ecco, insomma, ecco, allora ci regali una battuta tanto per chiudere? Io non ve la voglio regalare, non è per mancanza di generosità, è che ci vorrebbe un'ora e mezza per raccontarle, quindi chi avrà il piacere. Un'ora e mezza è un po' troppo per i radioascoltatori dell'ultima. Ci diamo appuntamento a Taormina, ricordiamo, domani 7 agosto, come abbiamo sentito, Lello Arena è Salvo Panza, Don Chisciotte interpretato da Roberto Erlizka, ricordiamo, la regia è di Nadia Baldi, per un testo di Ruggero Cappuccio, Don Chisciotte, liberamente tratto dal capolavoro di Cervantes, alle 21 al Palazzo dei Congressi di Taormina, domani il 10 agosto ad Amantea, il 23 agosto ad Anagni, il 31 al Todi Festival e dal mese di febbraio in tutti i maggiori teatri italiani. Grazie. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Summertime. E adesso noi andiamo al Magna Grecia Teatro Festival, sparso tra Ricadi, Cassano, Reggio Calabria, Crotone, Lamezia Terme, Locri, insomma, Vibo Valentia, tutta la Calabria, Parte il 7 agosto per terminare il 14. Angela Spocci il 14 settembre, attenzione, quindi ci sono un mese e più di performance, giusto? Giusto. 13 siti archeologici, 82 recite, oltre 350 attori impegnati, oltre 150 tecnici, più di 100 addetti al funzionamento dei siti e altro. Partiamo con Don Chisciotte della Mancia, poi c'è Per non morire di mafia e abbiamo poi i gemelli, insomma, le compagnie sono di tutta Italia, immagino, no? Perché poi spaziate. Sono territoriali, di produzione calabrese, scelti fra il meglio che la Calabria può offrire. A livello nazionale arriviamo alle ospitalità internazionali, tutte concentrate nel sito di Rosarno, assunto ai valori, tra virgolette, alla notorietà della cronaca nazionale solo e esclusivamente per fatti criminosi ed affini. Lì un festival nel festival, tutti i giorni, senza soluzione di continuità, dal 7 di settembre fino al 14 di settembre abbiamo concentrato tutto l'internazionale e il meglio del territoriale calabrese, animando piazze, strade, vicoli, borghi, anfiteatri, teatri, castelli dal mattino al pomeriggio, la sera, la notte, con incontri, dibattiti, prove aperte e quant'altro. Allora, ricordiamo il Magna Grecia Teatro Festival, abbiamo sentito la direttrice artistica Angela Spocci, si parte domani alle 21 con il ingegnoso Hidalgo, Don Chisciotte della Mancia, e poi Per non morire di mafia il 9 agosto, la commedia dei gemelli, ci sono vari siti, quindi si parte a Ricadi, poi a Cassano, poi a Reggio Calabria, no? Ricadi, mi scusi, ma io... Purtroppo lei mi deve perdonare, ogni tanto gli accenti delle città si sbagliano. Allora, Angela Spocci, grazie, noi vi seguiremo e quindi ci risentiremo durante il corso di Summertime. Aspetto tutti in Calabria. Alle 21.30 nei siti archeologici calabresi, grazie. A lei. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una labile, leggiadro viso, il fiato il riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, e di pensiero, e di pensiero. Sì, la donna è mobile, però pure l'uomo, ma erano altri tempi, quando si svolgevano le bellissime feste al Palazzo Ducale di Mantova, dove è ambientato il Rigoletto, l'opera in tre atti di Giuseppe Verdi, che sta per chiudersi alle Terme di Caracalla. Oggi, domani e dopodomani, poi ultime repliche, si chiude. A dirigere questo Rigoletto alle Terme di Caracalla, uno dei grandi maestri, un grandissimo regista che abbiamo l'onore di ospitare a Summertime, maestro Lamberto Pugelli. Buon pomeriggio. La ringrazio. E poi invece Gilda, che è la figlia di Rigoletto, anche se viene creduta l'amante, viene interpretata da Jessica Pratt. Buon pomeriggio, Jessica. Buon pomeriggio. Allora, maestro, qual è la difficoltà di ambientare un'opera così complicata in un posto come le Terme di Caracalla di Roma? La scelta di fatti è quella di ambientarla tra i ruderi di Caracalla. E quindi la conseguenza della scelta è la semplicità, l'estrema semplicità. Che cosa le piace di più di questa opera, maestro? La struttura drammaturgica. È un seguito di duetti e di arie magnifiche che prese singolarmente sono meravigliose. E nel contempo è la struttura proprio, il fare teatro. E d'altra parte è un luogo comune, ma il nostro Shakespeare è Verdi. Lei è convinto di questo, eh? Il nostro Shakespeare è Verdi. Allora, Jessica Pratt interpreta Gilda, questa figlia nascosta quasi di Rigoletto, un personaggio però anche poi eroico, perché sceglie addirittura di sacrificarsi. Sì, io la vedo abbastanza forte, perché comunque anche lei vede questo uomo in casa e l'accetta, non è che la manda, cioè non manda via subito, diciamo. E poi una ragazza che poi va alla chiesa ogni domenica, sappiamo almeno 3 mesi, poi sicuramente prima in convento, e poi alla fine si sacrifica non solo la vita ma anche l'anima. Cioè, diciamo, lei si suicida, sceglie la morte perché sa che Rigoletto ucciderà l'uomo che ama. Sì, salve l'amante, ma comunque si suicida. E comunque si, è un suicidio, sì, perché non avverte. Rigoletto si vuole, diciamo così, vendicare di questo uomo che ha rubato il cuore di sua figlia, e lei sceglie invece di entrare, di salvarlo, perché entra per prima in questo ambiente dove Rigoletto lo sta aspettando. Quindi è veramente, come dice il maestro, il nostro Shakespeare Verdi. Ma c'è una certa misoginia in questa quest'opera, no? Nella figura del duca, questa e quella per me pari sono, la donna è mobile. Maestro, è un po' così? Non c'è misoginia in Verdi, c'è misoginia del duca, che è un personaggio nettamente negativo, per la prima volta un tenore, contraddicendo i normali schemi della lirica. Cioè generalmente è il baritono, no? Il baritono cattivo, ma è il tenore cattivo. Quindi è una rivoluzione quella di Verdi, di fare il tenore cattivo e non il baritono. Sì, esatto. Il baritono per conto suo non è che sia un angelo, è contraddittorio. Il baritono è Rigoletto. Sì, è mescolato naturalmente, estremamente composito. C'è, come in tutti gli uomini, una parte cattiva e una parte buona. Quindi grazie per la spiegazione tecnica. Quello che ci ha detto il maestro è molto importante, no? Lamberto Pugelli, il maestro ci dice: attenzione, questa è un'opera rivoluzionaria dal punto di vista canoro, perché il tenore fa la parte del cattivo e generalmente invece il tenore è buono e il baritono, quindi Rigoletto in questo caso sarebbe cattivo, invece Rigoletto è buono e il duca, che è il tenore, è cattivo. Jessica, tu però sei un soprano. Il soprano è sempre buono, però. Allora, qual è l'aria? Non sempre. Abbiamo anche noi i nostri momenti. I nostri momenti. Però Gilda è un soprano buono. Qual è il momento più difficile da cantare in quest'opera? È molto diverso quest'opera. Magari sempre per me l'inizio dell'opera è difficile, perché ci sono ancora i nervi, sono ancora un po' ansiosa. E poi dopo mi rilasso e vado. E allora, noi ti abbiamo preparato Gilda, un'aria cantata da un soprano storico, ovviamente da Maria Callas. E mi raccomando, allora, ultime tre rappresentazioni del Rigoletto alle Terme di Caracalla. Ringraziamo il maestro Lamberto Pugelli per essere stato con noi, ringraziamo Jessica Pratt nel ruolo di Gilda alle Terme di Caracalla a Roma, un modo per vedere quello che è un grandissimo, come ci ha descritto il maestro, dramma lirico. Per mettere in scena un'opera occorre un buon direttore, un buon regista, ma occorre soprattutto dei buoni interpreti. E questo, in questo caso, l'Opera di Roma mi ha fornito un cast straordinario. Grazie allora maestro, ricordiamo la lirica, il nostro fiore all'occhiello. Grazie Jessica. Jessica Pratt nel ruolo di Gilda. Noi, come al solito, qui a Summertime facciamo sentire i tenori e i soprani storici. Allora, chi meglio di lei per augurarvi tutto il bene? Lo so, scusateci, ma il tempo a nostra disposizione è finito. Parlare sopra la Callas, che dobbiamo fare? Io però devo ringraziare Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Ricordarvi che ci potete scrivere a summertime@radio24.it, che potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it e così scoprire quello da andare a vedere in questo weekend di agosto in tutta Italia. Io vi auguro un buon weekend e una buona Callas.